Sura dell'apertura del petto, capitolo 94 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, è costituita da 8 ayat ed è scesa dopo la Sura 93, Ad-Duha. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, non siamo stati forse noi che ti abbiamo aperto il petto, abbiamo sollevato da te il peso che gravava sulle tue spalle e abbiamo elevato la tua rinomanza? In verità con il difficile c'è il facile, in verità con il difficile c'è il facile. Perciò, quando hai adempiuto un dovere religioso, impegnati subito in un altro e invita al tuo Signore.